È mercoledì 19 settembre e allora andiamo a vedere i titoli intanto dei quotidiani. C'è chi apre con la Fiat come il Sole 24 Ore, Monti chiama Marchionne sabato incontro con la Fiat. Tra l'altro il Sole 24 Ore oggi è a 2 euro per un'iniziativa interessante, Junior 24, vale a dire un libro allegato, L'economia spiegata ai ragazzi, lo trovate in edicola con il Sole. Repubblica, Marchionne va da Monti. Corriere della Sera, caso Fiat interviene Monti. C'è invece chi apre sulla decisione dei partiti di non farsi controllare i bilanci. Beh, c'è ancora la Stampa sulla Fiat, i vertici vedono Monti, ma eccolo qui, il Fatto Quotidiano, rubano soldi pubblici a man bassa ma i partiti bocciano i controlli. Libero, la casta vuole mangiare in pace, la giunta della Camera boccia l'ipotesi di una verifica esterna sull'uso dei fondi. Il Messaggero, Monti convoca la Fiat, mentre il Secolo XIX su questa vicenda dei fondi non controllati titola Gli incontrollabili. Pubblico apre con un'intervista a Vendola, padre di famiglia, Vendola che dice voglio un figlio. Insomma, batte il tasto su questo tema, prima il matrimonio. L'Unità, primarie, non facciamoci del male. Il Giornale, togliere l'IMU si può, ecco chi l'ha fatto, questo è il titolo di apertura. Voglio partire però da Luigi Lusi. Allora lo abbiamo scoperto, è definitivo, è vero, c'è la firma del GIP, del giudice. Luigi Lusi, che era in carcere da 81 giorni, anzi 88 giorni, a Rebibbia, deve rispondere infatti di accuse molto, molto gravi. Appropriazione indebita di 25 milioni di euro, era l'ex tesoriere della Margherita, sarebbe appropriato per fini personali di soldi pubblici, dunque nostri. Di questo deve rispondere, è agli arresti domiciliari, è stato mandato agli arresti domiciliari, ma in un convento. Perché aveva chiesto gli arresti domiciliari tramite i suoi avvocati, ma siccome non poteva parlare con nessuno, neanche con la moglie, allora è stata escogitata dagli avvocati questa richiesta, mandatelo in un convento. Ora, si potrebbero fare le ironie del tipo che il giudice avrà pensato che pur sempre in una cella rimane, dal carcere al convento. Oppure si possono fare ironie nel fatto che è andato nel convento di Pereto, un convento che è intitolato alla Madonna dei Bisognosi. E lui con i soldi che forse ha rubato, bisognosi ne potrà sistemare parecchi. E, a parte le ironie, c'è il dato di fatto che sicuramente fa pensare molti. Io ieri ho twittato su Twitter Pia Casta, cioè perché Luigi Lusi ha diritto a un qualcosa che molti carcerati probabilmente non avranno mai, quello di continuare gli arresti non in carcere ma nel domicilio. E se è impossibile in un domicilio perché non si può avere contatti, per esempio, con la moglie, escogitare questa strategia del convento? Sta di fatto, Lusi in convento, farà i lavori più umili, pagina 7 della Stampa, Giacomo Galeazzi ha commentato così: avevo chiesto io ai magistrati di poter venire qui, vi ringrazio per la vostra ospitalità, voglio vivere questa esperienza nella sua pienezza esattamente come fate voi. Così Luigi Lusi ha parlato al rettore padre Giancarlo Marinucci, che lo ha accolto ieri da Rebibbia nel monastero della Madonna dei Bisognosi di Pereto, località della Marsica al confine del Lazio. Fanno sapere gli organi di stampa che si sveglierà alle 6:30, quindi è già sveglio, alle 7 c'è la messa, poi la prima colazione, poi verranno assegnati i lavori del giorno, pulirà, cucinerà, pulirà i locali, costruirà corone di rosari e icone nel nostro laboratorio artigianale, fa sapere il rettore. Insomma, anche il Messaggero, per Lusi, domiciliari in convento. Ci sono anche le foto di un Lusi dimagrito, senza barba, all'arrivo con due faldoni nel monastero. Lusi domiciliari in monastero, restituirà tutti gli immobili. Anche questo ha giocato forse nella decisione del GIP, l'impegno da parte di Lusi di restituire almeno parte dei soldi che sono scomparsi, per esempio in Canada. Vabbè, Lusi è in convento, continuerà lì gli arresti, non più a Rebibbia ma domiciliari. Una buona notizia, si fa per dire con molta ironia, ma c'è poco da ridere, perché è davvero incredibile quello che scrive oggi Repubblica sulla prima pagina. Fabio Tonacci, la beffa INPS ai pensionati, ridateci la quattordicesima. Lo Stato si riprende le briciole, 200.000 pensionati nella fascia di reddito più povera dovranno restituire all'INPS la quattordicesima presa nel 2009, va da 300 a 500 euro a seconda dei casi. Per una manciata di spiccioli non ne avevano diritto. L'INPS recupererà così 80 milioni di euro, asciugando però pensioni già misere. È la beffa raccontata da Repubblica. Repubblica dice: possiamo anticipare il contenuto di una lettera che verrà spedita all'inizio da ottobre a, appunto, ai pensionati che hanno preso la quattordicesima. La lettera recita così: dall'analisi dei redditi relativi all'anno 2009 è risultato che le è stata corrisposta una somma non dovuta. Siamo pertanto costretti a provvedere al recupero mediante trattenute mensili a partire da novembre 2012 per complessive 12 rate. Cordiali saluti. Cioè neanche uno può dire l'ho spesa. Vi tengono, se non ve la dovevano dare, vi trattengono. Cari pensionati che purtroppo magari avete anche i redditi più bassi, perché era la quattordicesima introdotta con legge del 2007 che venne corrisposta a chi aveva più di 64 anni e dimostrava di avere un reddito personale non superiore a 8.649,84 euro. Dunque i pensionati di fascia più bassa, vi è stata data per sbaglio. A quanto pare ci sono 200.000 pratiche con dati sul reddito sbagliati, cioè chi ha richiesto la quattordicesima dichiarando di averne diritto ha certificato un reddito più basso di quello che in realtà aveva. L'INPS si è accorta solo quando dall'Agenzia delle Entrate sono cominciate ad arrivare le dichiarazioni del modello unico 2011 relative al anno 2010. A quel punto sono stati scoperti conteggi del reddito errati, falsi, incompleti. È bastato avere un'entrata in più, anche minima, un contratto di collaborazione, una rendita catastale, un acquisto non dichiarato per superare la soglia degli aventi diritto, e ci sono 200.000 pensionati che si vedranno arrivare questa lettera: ci siamo sbagliati, ora restituiteci tutto e se non provvedete vi tratteniamo in 12 rate mensili la quota per recuperare questi 300-400 euro e spicci che vi abbiamo dato nel 2009 sbagliando. Questo è restituite la quattordicesima, beffa per 200.000 pensionati, la trovate in prima pagina di Repubblica. La Fiat è ancora un tema molto molto caldo e sul quale aprono molti giornali, perché c'è stata una telefonata tra il premier Mario Monti e Marchionne. Si vedranno sabato, Monti in campo, ma niente aiuti, subito precisa. Questo diventa il titolo del Sole 24 Ore, pagina 3. Il premier chiama Marchionne sabato, un incontro informativo. No al dirigismo, certo la linea del governo non cambia, fa sapere Barbara Fiammeri. Mario Monti non ha alcuna intenzione di assumere posizioni dirigiste, di interferire sulle scelte di una società privata quotata in borsa, qual è la Fiat, né è disponibile a sostenere ipotesi di aiuti pubblici, che peraltro Marchionne ha sempre sostenuto di non avere mai chiesto. Anche il ministro Passera ha detto: lavoriamo da mesi su Fiat, continueremo a farlo senza confronto sui giornali. Insomma, la situazione è in evoluzione. Tra l'altro ieri c'è stata anche la replica in qualche modo di John Elkann, il presidente della Fiat. Come fa sapere il Corriere della Sera, ha approfittato in occasione pubblica una mostra fotografica a Torino per sostenere per ribadire il sostegno alle scelte dell'amministratore delegato Marchionne e per replicare in maniera diretta alle accuse di Diego Della Valle. La famiglia è assolutamente in sintonia, fa sapere il Corriere della Sera, le dichiarazioni di John Elkann le trovate a pagina 3. Quello che Fiat in questo momento sta facendo e quello che Marchionne sta portando avanti a tutte le persone che lavorano in Fiat Chrysler, siamo tutti estremamente uniti. Riguardo a Della Valle, che lo ha definito un ragazzo giovanissimo che ricopre un ruolo per il quale non ha l'esperienza, risponde Elkann: non capisco il livore che lo anima e sono abbastanza sorpreso che alla sua età e con le aspirazioni che ha agisca in un modo così irresponsabile. Insomma, questa vicenda si accompagna anche a delle polemiche, ultima delle quali ieri c'è stata questa vignetta di Vauro in prima pagina del Manifesto, alla quale il ministro Elsa Fornero ha risposto in maniera dura, parlando di vignetta vergognosa di un maschilista. La vignetta ritraeva Elsa Fornero vestita da squillo, giocando sul fatto che il ministro ha detto: aspetto ancora che il telefono squilli e che mi chiami Marchionne. Allora il ministro squillo, o meglio la ministra squillo, era la vignetta. divauro maschilismo vergognoso, così l'ha definita la stessa Elsa Fornero. Vauro replica con una breve dichiarazione al Fatto Quotidiano, lo trovate a pagina 18. Anch'io sono un vignettista squillo, dice Vauro, sono un vignettista squillo, sto aspettando che il telefono squilli per una telefonata della Fornero. Vauro ovviamente la butta in battuta, ma poi dice anche: io faccio le vignette non per la signora Fornero ma per i lettori, queste sono sciocchezze e non mi interessano. C'è da dire che il Manifesto su questo fa un editoriale in prima pagina col suo direttore Norma Rangeri dal titolo L'ironia di Fornero. Scrive Norma Rangeri che il ministro del lavoro fosse una persona sensibile, lo sapevamo già, quelle lacrime versate dopo aver imposto una riforma delle pensioni fortemente punitiva appartengono alla sua recente storia politica. Che fosse sensibile alle critiche lo ha dimostrato tante volte, respingendo le accuse di chi l'attacca nella sua funzione di ministro del welfare che rischia di scomparire. Vauro, ci mancava però la Fornero che reagisce con durezza alla satira di Vauro, volgare maschilista. Vauro è abituato agli attacchi, certo non è un femminista. Ma sostenere che sia un maschilista perché prende in giro il ministro facendo ricorso, stravolgendo nel senso alle parole di Fornero che aspetta uno squillo telefonico di Marchionne, è un po' sopra le righe. Non possiamo garantire che Vauro prenderà in giro tutti e tutte, Fornero compresa, ma finché avrà una matita per disegnare lo farà. Così scrive Norma Rangeri. Peraltro oggi la vignetta di Vauro non c'è sul Manifesto in prima pagina. Comunque Norma Rangeri fa sapere, continuerà a scrivere e a fare vignette per il Manifesto finché ne avrà la matita. Poi, cari ascoltatori, bisogna entrare nel corposo capitolo che trovate sui giornali, che riguarda un tema molto semplice: la politica e i soldi nostri. Allora, oggi Oscar Giannino ne parlerà alle 9. La vicenda proviene dalla Camera. Avevano fatto un regolamento, stilato un regolamento per certificare i bilanci dei partiti da società di revisori di conti esterne alla Camera. E, cari signori, abbiamo scherzato. Non si può fare. Camera, alt ai controlli esterni. Così il Sole 24 Ore, pagina 10. Per i fondi ai gruppi non ci sarà la certificazione di società indipendenti. Scoppia un nuovo caso, scrive il Sole, sui fondi ai partiti. Oggi la Giunta per il Regolamento voterà i criteri per garantire più trasparenza nei conti dei gruppi parlamentari, ma chiudendo la porta ai controlli sui bilanci da parte di società esterne specializzate nella certificazione. Questa mattina toccherà all'organismo di controllo della Camera decidere se basteranno gli uffici di Montecitorio per mettere il timbro di regolarità o se, come proposto inizialmente dal presidente Fini, bisognerà ricorrere al vaglio esterno. Ma è lo stesso Fini ieri a spingere per una marcia indietro e per un ritorno al testo originale che imponeva appunto il controllo esterno sui conti. La parola chiave è sempre quella, cari ascoltatori, una parola che deriva dal greco, orribile, bella ma orribile per la sua applicazione, bella per come si pronuncia ma orribile per come viene interpretata. Autodichia, che è in pratica la capacità degli organismi istituzionali di risolvere all'interno della propria amministrazione le controversie concernenti il personale dipendente senza andare, insomma, all'esterno. Per questa autodichia, cioè, ci facciamo tutto da noi. Non c'è bisogno di andare all'esterno. Il principio dell'autogiurisdizione degli organi costituzionali, in base al quale Camera e Senato decidono sulle autorizzazioni a procedere dei propri membri. C'è l'autodichia, dunque non c'è bisogno che ci certifichi nessuno dall'esterno. Repubblica, pagina 6, con Carmelo Lopapa, racconta in un articolo dal titolo Carte di credito, cene elettorali, portaborse, così vengono spesi oltre 35 milioni di euro l'anno. Per esempio, i responsabili Scilipoti e Moffa dovranno spiegare come è stato utilizzato il 1.249.000 che il gruppo Popolo e Territorio ha incassato nel 2011, ma secondo quanto ha visto Repubblica sono arrivati, per esempio, una torta enorme. Il PDL e PD, quindi Cicchitto e Franceschini, hanno potuto contare su quasi 10 milioni di euro ciascuno. La gran parte per il personale, 6 milioni, il resto per generiche spese di funzionamento dei gruppi, 4 milioni per il PDL, 3,6 milioni per i democratici. Ecco, è quel contributo che foraggia i gruppi, sul quale si chiede come vengono utilizzati, con quanta discrezionalità, esistono pezze giustificative, c'è l'autodichia e quindi non c'è bisogno di spiegare nulla. Tra l'altro, epocale l'intervista di Ugo Sposetti, ex tesoriere dei DS fino al loro scioglimento, intervistato a pagina 7 da Annalisa Cuzzocrea, dice: beh, anche la Parmalat aveva il bilancio certificato, controllata dalla Consob, la Lehman Brothers, la società dei grandi scandali in America, tutti i bilanci controllati, ma non è servito a nulla, perché chi vuole rubare, ruba. Noi si fa di tutto, però se scende il Padre Eterno forse si fermano i ladri, ma già se scende il Figlio non ce la fa. Questo è Keynes, non Sposetti, eh? Eccolo qua il titolo: se uno vuol rubare, neanche Gesù lo ferma. Così l'ex tesoriere dei DS. Insomma, i controlli sui conti non ci sono, mentre la regione Lazio parla francone fiorito. Repubblica gli fa la posta, lo aspetta sotto casa, Corrado Zunino. Me sento er federale de Anagni, ma ostriche e champagne erano per il consigliere Miele e per gli altri. Fiorito, accusato di peculato, fa i nomi, contrattacca, dice: io non ho rubato nulla, hanno rubato gli altri e faccio i nomi. Me sento er federale de Anagni, questo è il titolo dell'articolo, l'intervista di Corrado Zunino, parla francone Fiorito, dice: ma che, io non ho rubato nulla. Ma lei ha 12 conti correnti all'estero, solo 4. Lei ha 8 case di proprietà, 4 le ho ereditate, per il resto ho acceso 5 mutui per 900.000 euro complessivi. Pagherò per i prossimi 30 anni, sono al limite delle mie possibilità, ma sono consapevole che lo stipendio da consigliere è alto. E poi 800.000 euro in ostriche, champagne, SUV, suite, sono stato io a far partire l'inchiesta. E le ostriche allora chi se le ha divorate coi soldi pubblici? Il consigliere PDL Miele, cioè fa i nomi, eh? E lo champagne chi l'ha stappato? Il consigliere PDL Bernaudo. Beh, insomma, un'allegra brigata. E poi non posso dire di più, c'è un'inchiesta in contro. Alla domanda la destra italiana è corrotta, dice: no, non mi dimetto, mi sono già autosospeso, perché dovrei dimettermi dal consiglio regionale? Già verrebbe da dire: ma sì, ma perché? E poi la vicenda finale, senta, Er Batman, lui dice: non ho mai avuto incidenti in moto, non so davvero come sia nata questa idea di Er Batman, un altro è il mio soprannome, quale? Er Federale, quando sono quassù me sento proprio Er Federale de Anagni. Er Federale dunque parla, dice la sua verità. C'è anche una foto che sta circolando su siti internet che ritrae il vice capogruppo del Popolo della Libertà Carlo De Romanis, vestito, travestito da Ulisse. E sono foto di una festa in costume dell'epoca romana, istantanee di una festa, dei dell'Olimpo, eroi in armatura, leggiadre ninfe, ancelle devote che trasportano giare piene di vodka e mojito. È tutto vero, è una festa che lui dice: ho pagato tutto io, mi è costata 20.000 euro. E parteciparono anche la governatrice Renata Polverini, l'assessore Cetica, lo stesso che Fiorito dice arrivò da questa festa dicendo è stata una festa disgustosa, ma De Romanis si difende, dice: ma va, ho pagato io, volevo ringraziare i miei sostenitori dopo le elezioni, 20.000 euro una festa, ci sono le foto ovunque sui giornali con ancelle, lui vestito da Ulisse, il vice capogruppo del PDL alla Regione Lazio. Regione Lazio con la presidente Polverini che fa un'intervista al Messaggero, intervistata da Mario Aiello a pagina 3, dice: nel PDL ci sono troppe mele marce, bisogna cacciarle dal partito, vanno cacciati i mercanti dal tempio del PDL, certamente Fiorito è una persona da mandare fuori. Si devono dimettere tutti, chiede Aiello, è un problema nelle mani della dirigenza nazionale. Non voglio certo criticare Angelino Alfano, col quale siamo in totale sintonia. Mi ha telefonato Berlusconi per dirmi: tu non c'entri con questo scandalo, vai avanti. Vuol dire che si è reso conto che nel PDL qualche mela marcia c'è. Ma in realtà il Corriere, per esempio, mette in luce anche le spese della stessa Polverini. Per esempio, foto per 75.000 euro, tutte le spese della Polverini, a pagina 8 del Corriere della Sera. Perché si chiede il Corriere questo contratto con Edmondo Zanini, fotografo della Presidente, che costa alla Regione Lazio 75.000 euro l'anno ed è stato assunto nel suo staff come responsabile comunicazione grandi eventi, la segue ovunque, in ogni occasione pubblica. Poi finiamo nella surrealtà con l'intervista straordinaria che Fabrizio Caccia fa alla mamma di Francone Fiorito. E cosa può dire una mamma? Quello che dicono tutte le mamme: mio figlio è il miglior figlio del mondo. I figli sono piezze core e lo sappiamo. E questa surrealtà avviene ed è concretizzata a pagina 9. Mio figlio è intelligente, a 3 anni leggeva Topolino. Questo è il titolo dell'intervista ad Anna Tintori, donna elegante, bionda, che dice: mi farete crepare con tutte queste cattiverie. Franco è il miglior figlio del mondo, lo amo, lo adoro, lui non ha rubato, di questo ne sono sicura, hanno rubato gli altri. Franco non è come Lusi, noi siamo benestanti e mio figlio ha un buon stipendio alla Regione Lazio. Perché avrebbe dovuto rubare? Ma senta, il Batman dei anagni, ostriche e champagne, ma che dice? Come vi permettete? Le ostriche le hanno mangiate gli altri, Franco non ha mai fumato una sigaretta, non è mai andato in discoteca in vita sua, è un uomo per bene, intelligentissimo, in terza media venne promosso con eccellente, a 3 anni leggeva già Topolino. Cioè, il tenore dell'intervista è questa. Ed è uno spaccato straordinario d'Italia, se volete, perché l'intelligenza con l'eccellente alle medie e 3 anni Topolino, effettivamente io leggevo Braccio di Ferro, quindi un po' rimbambito, sono cresciuto rispetto se mi paragono a Francone Fiorito, secondo i criteri della madre, però è uno spaccato di intervista che va assolutamente letta. Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera. In realtà, se poi andiamo sulle cose serie, i costi della politica al Sole 24 Ore con Gianni Trovati fa un'interessante pagina. Ogni seggio costa 750.000 euro alla regione, in tutte le regioni. Ognuno dei 1.111 consiglieri regionali pesa sul bilancio pubblico come un manager di altissimo lignaggio. È un calcolo fatto dal Sole. 743.000 euro l'anno, calcolando solo le spese più politiche e senza considerare le ricadute legate al personale amministrativo di supporto. 750.000 euro l'anno a consigliere regionale, euro più, euro meno. Io purtroppo ho poco tempo, noi ci concentreremo sulla vicenda del CAED eccetera. Voglio segnalarvi solo questa storia molto interessante, viene dal secolo XIX. Il prefetto di Genova ha ritirato una patente a un ragazzo perché lo ha considerato indegno moralmente. Ci sono condanne che non si scontano mai fino in fondo, scrive Graziano Cetara in prima pagina, e che ti inseguono, diventano una seconda carta d'identità e viaggiano con te. Ora a Genova, in base a una legge introdotta 2 anni fa, rimasta di fatto inapplicata, il giudizio si estende alla sfera morale della persona. Una condanna per questioni di droga diventa un marchio di indegnità, inaffidabilità, capace di farti revocare la patente. È successo a un ragazzo, un signore, non un ragazzo, Matteo, di 41 anni, rappresentante di commercio di Arenzano, che chiede di rimanere nell'anonimato, ha sbagliato, finendo nelle mani di organizzazioni di spacciatori, è arrivata la condanna, ma ora il prefetto gli ha tolto la patente considerandolo indegno moralmente. Certo, si può discutere finché si vuole, nel paese in cui uno prende, si mette al volante e magari ubriaco sotto effetto della droga uccide delle persone e non gli viene ritirata la patente, o meglio gli viene poi restituita dopo qualche tempo. Lui, che ha già, questo signore che ha già scontato la pena, quindi ha scontato la sua pena per spaccio, però si è visto revocare per 3 anni, credo, la patente per indegnità morale dal prefetto. Tra l'altro dice: io ora con i miei avvocati perderò il lavoro, perché è un rappresentante di commercio e quindi ha bisogno di girare con la macchina, e si è rivolto a degli avvocati e un altro giudice sarà chiamato a decidere sulla sua moralità. Beh, una storia che trovate in prima pagina del secolo XIX, molto interessante. È un primo caso a Genova. L'automobilista, un commerciante, è stato tra l'altro lasciato a piedi in vacanza per decisione del prefetto. Sei indegno moralmente e dunque ti revoco la patente.